Ah, così te ne vai e non ti importa niente ciò di me. Senza me te ne vai e già ti sto cercando mentre ti sto perdendo. Ah, così te ne vai e già deciso come amarti. Dove andrai? Che farai? E guardami dall'occhio, regalami un abbraccio. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Poi col vento parlerai, quante storie inventerai, senza tempo correrai a tu nessuno ci sta. Così te ne vai, mi sembra proprio come in un film. Senza me te ne vai, tu come stai lassando e io che sto morendo. Così te ne vai, ma rindo cuore di sto con me. E un addio che sto ciao e porto questa lacrima per te a sto giagnano. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Poi col vento parlerai, quante storie inventerai, senza tempo correrai a dove nessuno ci sta. Touch.